Il rito della pace. L'Eucaristia è per sua natura sacramento della pace. Questa dimensione del mistero eucaristico trova nella celebrazione liturgica specifica espressione nel rito dello scambio della pace. Si tratta indubbiamente di un segno di grande valore, Giovanni 14:27. Nel nostro tempo così spaventosamente carico di conflitti, questo gesto acquista anche dal punto di vista della sensibilità comune un particolare rilievo, in quanto la Chiesa avverte sempre più come compito proprio quello di implorare dal Signore il dono della pace e dell'unità per se stessa e per l'intera famiglia umana. Rafforzare i legami di fraternità con tutte le anime aiuta a unirsi con frutto a Gesù nell'Eucaristia. Inoltre, in questo modo collaboriamo al raggiungimento di quella concordia tra gli uomini per la quale la Chiesa intercede nella Santa Messa. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Questa supplica manifesta un anelito insopprimibile presente nel cuore di ciascuno. La Chiesa si fa voce della domanda di pace e di riconciliazione che sale dall'animo di ogni persona di buona volontà, rivolgendola a colui che è la nostra pace, Efesini 2:14, e che può rappacificare popoli e persone anche dove falliscono i tentativi umani. La pace, vero dono divino, deve essere costantemente promossa. Sarà ottenuta in maniera completa solo quando il regno di Cristo arriverà in pienezza alla fine dei tempi. Nel frattempo occorre sforzarsi di edificarla giorno dopo giorno nelle anime e nella società, soprattutto mediante la lotta ascetica personale contro le cattive inclinazioni e diffondendo intorno a noi sentimenti di concordia e di perdono, senza scoraggiarsi davanti alle difficoltà che possono sorgere. La vittoria di Dio è certa. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Non accontentiamoci di una pace che si risolva in semplici compromessi tra gli uomini, pace sempre fragile ed effimera. Ricerchiamo la pace di Cristo, quella che il mondo non può dare, Giovanni 14:27, quella che procede dall'ordine stabilito dal Creatore, dal rispetto delle sue leggi, a cominciare dai dettami della legge naturale impressi da Dio stesso nel cuore delle creature. Come apostoli di Gesù, noi cristiani dobbiamo impegnarci a fondo affinché gli uomini e le donne si decidano ad ascoltare la voce di Dio nelle loro coscienze e la seguano. Se impariamo ad amare con lo stesso cuore di Cristo, impareremo a servire, a difendere con generosità e chiarezza la verità. Per amare in questo modo è necessario estirpare dalla propria vita tutto quanto è di ostacolo alla vita di Cristo in noi. L'attaccamento alla comodità, le suggestioni dell'egoismo, la tendenza alla vanagloria. Potremmo trasmettere agli altri la vita di Cristo solo a condizione di riprodurla in noi stessi. Potremmo lavorare nelle viscere del mondo, trasformandolo dal di dentro, renderlo fecondo, solo a condizione di sperimentare in noi stessi la morte del chicco di frumento. Che meraviglioso compito ci spetta come cristiani. Poi il celebrante, in nome della Chiesa, aggiunge: «La pace del Signore sia sempre con voi». E i fedeli rispondono: «E con il tuo spirito». Invita poi tutti, se è opportuno, a manifestare esternamente questi desideri di pace. Questo rito non deve limitarsi a un gesto convenzionale. Invitandoci a partecipare alla pace di Cristo, quest'intenzione soprannaturale umana deve nascere dal cuore. Il Signore ci convoca nella comunione a vivere nello stesso suo corpo, con Lui e con gli altri. Chi potrà separare o dividere coloro che in virtù di quell'unico corpo santo furono resi una sola cosa con Cristo? Poiché se tutti partecipiamo di un solo pane, 1 Corinzi 10, formiamo tutti un solo corpo, dato che Cristo non può essere diviso. Il rito della pace deve ancor meno tradursi in una perdita del raccoglimento. In questo senso, il Sinodo dei Vescovi sull'Eucaristia ha raccomandato di moderare tale gesto per evitare manifestazioni inadeguate che provocherebbero confusione tra i fedeli. Come ha puntualizzato Benedetto XVI, è bene ricordare come non tolga nulla all'alto valore del gesto la sobrietà necessaria a mantenere un clima adatto alla celebrazione, per esempio facendo in modo di limitare lo scambio della pace a chi sta più vicino. Risulta perciò chiaro che il fatto di augurare a tutti la pace del Signore deve escludere qualsiasi ombra di superficialità, di frivolezza o, per dirla in altro modo, di irragionevolezza, poiché si è appena rinnovato il sacrificio del Calvario e il corpo di Cristo è sull'altare. La fractio panis. La frazione del pane ha un senso molto profondo. Nei primissimi tempi del cristianesimo diede il nome a tutta la celebrazione eucaristica. Quando nostro Signore spezzò con le sue mani il pane durante l'ultima cena per distribuirlo agli apostoli, annunciò che il suo corpo sarebbe stato distrutto e il suo sangue versato nella passione sulla croce per gli uomini suoi fratelli. È altresì facile immaginare la delicatezza e il rispetto con cui Cristo compì questo gesto, persino dal punto di vista materiale. Non è pensabile che ci sia stata da parte sua superficialità o rudezza. Ricordiamocene tutti quanti, ma in particolare noi sacerdoti. In quel momento siamo in contatto, stiamo toccando attraverso le specie sacramentali il corpo e il sangue di Cristo stesso. La liturgia stessa lo fa capire, stabilisce che mentre si spezza il pane, il celebrante e gli astanti recitino o cantino insieme l'Agnus Dei. Questo pane che il sacerdote divide, questo sangue nel quale viene depositato un frammento della sacra ostia, sono, non stanchiamoci di ribadirlo, il corpo e il sangue di Cristo, vero agnello pasquale, immolato sulla croce per i nostri peccati. Nel pane spezzato, spiega Benedetto XVI, il Signore distribuisce se stesso. Il gesto dello spezzare allude misteriosamente anche alla sua morte, all'amore sino alla morte. Il rito della fractio panis costituisce di conseguenza un richiamo, un'attualizzazione. Ci viene ricordato che l'opera della redenzione è realmente presente davanti a noi e che il Signore attende ardentemente la nostra collaborazione per estendere i suoi frutti nel mondo. La Santa Messa spinge l'anima a trasmettere a quante più persone possibile la letizia di ricevere Gesù Cristo come vera manna che fortifica la vita cristiana e mette ali all'apostolato. Un cuore innamorato dell'amore necessariamente parla del suo amore. L'Eucarestia è del tutto incompatibile con qualsiasi tipo di discriminazione o di assenza di carità. Per identificarci con Gesù nella comunione dobbiamo imitarlo. Come Lui dobbiamo donarci, servire gli altri, dimenticare noi stessi, diventare cibo spirituale per gli altri, aiutandoli con gioioso spirito di sacrificio in tutte le loro necessità. Nel pane distribuito riconosciamo il mistero del chicco di grano che muore e così porta frutto. Riconosciamo la nuova moltiplicazione dei pani che deriva dal morire del chicco di grano e proseguirà sino alla fine del mondo. Allo stesso tempo vediamo che l'Eucaristia non può mai essere solo un'azione liturgica. È completa solo se l'agape liturgica diventa amore nel quotidiano. Chiediamo in quest'ora al Signore la grazia di imparare a vivere sempre meglio il mistero dell'Eucaristia, così che in questo modo prenda inizio la trasformazione del mondo. Durante la Santa Messa il Signore ci offre molti aiuti per pensare a come mettere in pratica i Suoi insegnamenti nei diversi momenti del rito. Il Figlio dell'Uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire. Matteo 20:28. Chi non lavora il terreno di Dio e non è fedele alla missione divina di servizio agli altri, aiutandoli a conoscere Cristo, difficilmente riuscirà a capire che cos'è il pane eucaristico. Non si apprezza ciò che non costa sforzo. Per stimare e amare la sacra Eucaristia è necessario percorrere lo stesso cammino di Gesù, essere grano di frumento, morire a noi stessi, risorgere pieni di vigore e dare frutto abbondante, il 100 per 1. Marco 4:8. La preparazione personale alla comunione. Si avvicina il momento di quell'unione così intima della creatura con il Creatore, alla quale è possibile aspirare sulla terra grazie all'infinita bontà di Dio. Il sacerdote, riconoscendosi indegno di ricevere la comunione, recita una delle due preghiere che il messale propone per questo rito. Nella prima, ricordando esplicitamente l'intervento dello Spirito Santo nel sacrificio dell'altare, chiede al Signore che il fatto di ricevere il suo corpo e il suo sangue lo liberi da ogni male, gli faccia compiere sempre i suoi comandamenti e lo mantenga sempre unito a lui. Nella seconda, manifestando fiducia nell'efficacia salutare della morte e risurrezione di Cristo, dice sottovoce: «La comunione con il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo». Curiamo le disposizioni corporali e spirituali necessarie per ricevere degnamente l'Eucaristia. Che anche il nostro modo di vestire sia decoroso. Ispiriamoci al modo in cui la Madonna, con purezza, umiltà e devozione, ricevette Gesù nel suo seno immacolato. Sentiamoci sostenuti da tutta la potenza celeste quando parliamo della Santa Messa nel nostro apostolato personale, senza rispetti umani. Il desiderio di ricevere degnamente il Signore si manifesta altresì quando il sacerdote, prendendo devotamente tra le mani la sacra ostia, mostra ai fedeli il corpo del Signore e proclama: «Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo». Il popolo, all'unisono, ripete la professione di fede del centurione di Cafarnao: «O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato». Pronunciamo queste parole ogni giorno con più fervore e contrizione. Fino ad ora quasi tutte le preghiere della messa erano al plurale. Adesso invece ciascuno si rivolge a Gesù individualmente: «Domine, non sum dignus». Anni fa l'allora cardinale Ratzinger così lo spiegava: «Quel che qui ci è donato non è un pezzo di corpo, non è una cosa, ma è lui stesso, il risorto, la persona che si comunica a noi nel suo amore passato attraverso la croce». Ciò significa che comunicarsi è sempre un processo personale. Non è semplicemente un rito comunitario che possiamo sbrigare come qualsiasi altra faccenda comunitaria. Nell'atto di comunicarmi sono io che mi presento al Signore che si comunica a me. Per questo la comunione sacramentale deve sempre essere anche comunione spirituale. Per questo, prima della comunione, la liturgia passa dal noi liturgico all'io. Qui è il mio io a essere provocato. Qui sono io a dover venir fuori, ad andargli incontro, a chiamarlo. Il sacerdote ripete a ciascuno nell'amministrare la comunione: «Corpus Christi». La nostra risposta deve essere ferma e risoluta. Osserva infatti Sant'Ambrogio: «Quindi non senza un significato dici Amen, perché confessi ormai nel tuo spirito che tu ricevi il corpo di Cristo. Perciò, quando ti accosti per farne richiesta, il sacerdote ti dice: il corpo di Cristo, e tu rispondi Amen, cioè è vero. L'intima persuasione custodisca ciò che la lingua confessa».